Come esce oggi libero, vincendo ancora una volta il primo viene avanti cretino, il brivido della realtà, il riscaldamento del pianeta, ma se fa freddo? Vorrei ricordare a Feltri e i suoi redattori che il frigorifero fa freddo perché emana caldo, si chiama termodinamica, però non esiste la termodinamica, è un'invenzione degli ecologisti, dei catastrofisti. Nevi in montagna, Milano è minima 5 gradi, il fenomeno smentisce i cretini nostrani, e qui gioco di parole tra Greta, cretini, è avanzatissimo, sembra crosta ma è realtà, e con la scusa della sete nel mondo, 5 Stelle vuole alzare le tasse sull'acqua, perché non c'è sete nel mondo.